cambiando il tempo. Lo vedo da una nuvola, il freddo che mi scalda ci giudica. Vem a noite, mas o sol brilha ainda em você. Entre nós nenhum porém, está tudo aqui. Dammi un bacio che sia per sempre, se piove resterà. Dal tuo cuore trasparente vedo l'anima. Cambi tu come fa il tempo, prima avvolge poi non sai il valore del momento. Come adesso che vorrei, quero beijo che seja pra sempre, che possa eternizzar esse amor tão transparente, puro de alma. Se você vive como um céu aberto e azul, e se as manhãs são coloridas desse azul, nos olhos meus, os teus, vou te esperar, me preparar pra te dizer te amo. Ritornerà la verità, ti brucerà se piove. Dammi un bacio che sia per sempre, se piove resterà. E se amor transparente, puro de alma, resterá, resterá, resterá, resterá. Per sempre, se piove, resta.